Sempre Fair Cake è stato parzialmente prodotto da una campagna crowdfunding che abbiamo iniziato a giugno ed è durata circa un mese e mezzo. Con questa campagna abbiamo comunque coperto un terzo del budget del festival grazie all'apporto di tantissime donne che hanno partecipato fin da subito alla campagna. Ci eravamo prefissato un obiettivo di 3.500 euro, siamo arrivate a 6.300 euro, quindi siamo molto contente insomma di questo risultato, anche perché è stato un modo per condividere da subito i contenuti del festival e anche avere già delle presenze in anteprima delle donne al festival che hanno potuto comprare abbonamenti e biglietti. Voi in generale siete state molto attive sui social oltre al crowdfunding, poi c'è stato il teaser che è stato rilasciato da poco, c'è stata anche una campagna per ospitare chi voleva venire da fuori a vedere il festival. In generale insomma avete già iniziato a fare rete e poi questo è in parte anche lo scopo del festival, giusto? Sempre Fair Cake è un festival che si basa proprio sulla comunità non solo virtuale ma anche reale. Siamo partiti dai social network e quindi principalmente da Facebook con delle campagne che miravano proprio a creare già questa comunità, questa partecipazione, quindi innanzitutto con il trailer che presentava un po' tutti i film del festival, prima di questo la campagna crowdfunding e poi abbiamo lanciato questa campagna sugli anni 90 che è un po' il leitmotiv del festival perché il visual è basato su delle foto che ha fatto Luki all'Euro Pride nel 94 e quindi abbiamo ricevuto tantissime foto di donne a qualsiasi età che negli anni 90 insomma avevano appunto diverse età, diverse esperienze da raccontare e poi abbiamo continuato con delle campagne social soprattutto per presentare la programmazione del festival. Mi puoi rispiegare un po' meglio questo leitmotiv degli anni 90, insomma dove ritornano questi anni 90? Sì, gli anni 90 tornano in vari film, diciamo che eravamo partiti da questo 94 che è l'anno in cui Luki è stata all'Euro Pride, ha fatto queste bellissime foto e poi un po' casualmente un po' no abbiamo selezionato dei film in cui questo 94 comunque i primi anni 90 tornavano, ad esempio Shakedown che è questo documentario che daremo la domenica pomeriggio. Tutte le 400 ore riprese dalla regista sono avvenute proprio nei primi anni 90. Silvana, che è il documentario invece di sabato alle 18, racconta parte della sua vita da bambina proprio tra il 93 e il 94 e infine abbiamo scelto un film per la parte lesbian cult che è Go Fish, che è stato prodotto nel 94, quindi questi anni 90 sono tornati da tutte le parti. Invece parlando di altri incontri oltre alle tante proiezioni che ci saranno, ma ci saranno anche alcune presentazioni di libri e un pranzo a colori. Abbiamo cercato di dare spazio anche a eventi collaterali che realizzeremo qua nel giardino di fianco al cinema per dare spazio a dei contenuti comunque femministi e importanti per la comunità di donne e lesbiche che non fossero solo film. Quindi ad esempio sabato alle 17 c'è la presentazione del libro La crociata antigender dal Vaticano alle mani Futu di Sara Garbagnoli e Massimo Prearo, una presentazione che viene realizzata insieme anche ad altre associazioni e realtà di Bologna come la Libreria delle Donne, la Rete Attraverso lo Specchio e UAR sezione di Bologna. È praticamente un po' un excursus su questa crociata appunto antigender che si è venuta a manifestare negli ultimi anni, mentre domenica sempre alla stessa ora presenteremo un libro che non è ancora uscito ma che per noi è molto importante perché fa un excursus invece sul movimento lesbico e femminista diciamo dagli anni 70 a fine anni 80. Si intitola L'emersione imprevista, storia del movimento delle lesbiche, è stato realizzato da Elena Biagini e con lei dialogheranno Liana Borghi e Grazia Di Canio. Invece domenica alle 13 abbiamo pensato a questo incontro molto informale perché ci immaginiamo un pranzo proprio sull'erba e per questo il titolo Pranzo a colori. C'è un incontro formale che faremo insieme alle ragazze di Tuba, che è questa libreria e associazione di Roma, associazione femminista, insieme a Marta Bencic, che è anche una delle curatrici del Festival Bande Femme sulle illustratrici donne, e insieme a loro ci saranno due illustratrici molto brave, molto importanti per noi, che sono Frad, che racconta un po' tramite vignette tutti i lesbodrama di cui conosciamo tutte a meno dito le fasi, e poi Julie Marot, che è comunque un'illustratrice francese che ormai si è trasferita a Bologna e presenterà diciamo il suo ultimo libro che è Corpi Sonori ed è ideatrice della graphic novel da cui è stato tratto La vita d'Elle.